Minu changu di mukamba Jina siri Jina siri ya Amabibiani Wana meno ma Dime, dime na Kongo Waka usari ma Dime, dime na Kongo Wana meno ma Dime, dime na Kongo Waka umakisi Dime, dime na Kongo Wana meno ma Baby